con Rossana Tosto che ci parlerà della serata Donne e Jazz, la musica attraversa ogni silenzio. Venerdì 13 settembre 2019 alla Casa Internazionale delle Donne a Roma. Uno spettacolo che presenterà e oltre a essere presentatrice anche una delle autrici dei testi. Uno spettacolo che si compone di monologhi tratti da uno spettacolo teatrale intitolato Uragano e di musica jazz al femminile. Sana, ben trovata. Grazie e ben trovato anche a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ci parli di questa serata? Molto volentieri, anche con grande partecipazione. Lo hai già annunciato tu, il titolo della serata è Donne Jazz o Jazz, l'importante è che sia musica. Serata evento promossa dall'Associazione Donne e Politiche Familiari, che è presieduta da Teresa Dattilo, e sarà una serata ricca di emozioni, di esperienze, di musica e parole proprio in chiave jazz, con cui attraversare, come tu accennavi, il muro di ogni silenzio, come un po' recita infatti il titolo completo del nostro spettacolo. Sul palco si alterneranno due artiste veramente molto raffinate e talentuose, la cantante Elisabetta Antonini, che è tra le protagoniste direi più originali della scena musicale jazzistica, accompagnata dalla brava e fine pianista Stefania Sallini. E avremo un repertorio molto vario, soprattutto utilizzo sempre questo termine, ma molto emozionante, perché saranno interpretati dei brani di alcune protagoniste storiche del jazz che hanno conosciuto da vicino la violenza perché l'hanno subita. Quindi la serata è dedicata appunto ad una lotta contro la violenza domestica, quella che violenza che si insinua nelle case silenziose con maltrattamenti, mortificazioni, umiliazioni spesso difficili anche da dichiarare. Lo scopo di questa iniziativa, poi racconterò tutto lo svolgimento dello spettacolo, è appunto contrastare la violenza, come dicevo, domestica su donne e bambini, con emozione e musica, anche per stimolare di uscire un po', no? Dal clima, dal tunnel di paura, di chiusura, di isolamento che spesso appunto si insinua tra le donne che subiscono violenza. È importante invece affidarsi alle associazioni, alle reti che possono portare, come dire, possono salvare, no? Anche vite, direi, perché attraverso il dialogo, attraverso la rete amica, la rete di esperti come l'Associazione Donne e Politiche Familiari, che giorno dopo giorno aiuta, assiste ed è impegnata da molti anni con progetti sociali per aiutare le donne e i minori in difficoltà, come ha fatto e continua a fare la Casa Internazionale delle Donne, come deve continuare a fare la Casa Lucio e Siesta e come continua a fare l'associazione, appunto, ripeto, Donne e Politiche Familiari. Ci parli anche un po' di questo spettacolo che sta alla base, Uragano? Dicevo che sul palco si alterneranno brani musicali dedicati appunto alle più grandi melodie di Billie Holiday, Nina Simone e Tori Amos, interpretate dalla voce vibrante di questa grande cantante jazz che è Elisabetta Antonini, accompagnata al piano dalla pianista Stefania Tallini, e poi due monologhi teatrali che sono tratti da uno spettacolo che è andato in scena già nel 2017, si intitola Uragano, scritto dalle donne dell'Associazione Politiche Donne Politiche Familiari. Questi sono due brani che parlano di fatti reali, quindi sono storie e fatti reali interpretati con un'energia direi commovente da parte di due attrici. La prima storia si intitola Maritozzi con la panna, è scritta e interpretata, ci tengo a dirlo, ripeto, energia commovente da Stefania Cosentini, e l'altra storia, Saramara, di cui sono l'autrice, è interpretata con sofferenza, con pathos contagioso dalla bravissima Daniela Dolente. Il regista dei due estratti teatrali è il bravissimo Stefano De Stefani. Per tutte le informazioni in rete dove si può cercare? Al sito internet della Casa Internazionale delle Donne? Anche sulla pagina Facebook dell'Associazione Donna e Politiche Familiari e poi sul sito internet della Casa Internazionale delle Donne. E allora ricordiamo Donne e Jazz, la musica attraversa ogni silenzio. Venerdì 13 settembre 2019 alla Casa Internazionale delle Donne. Un saluto e un ringraziamento a Rossana Tosto che presenterà la serata ed è anche autrice di uno dei testi. Rossana, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto.